Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Eccoci qua per un nuovo argomento, cambiamo, non si parla di calcio sicuramente, con gli amici dell'Adico, e quindi saluto con noi al telefono Gianluca Codognato. Ciao Gianluca, benvenuto. Ciao Francesco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, dicevo, non si parla di calcio, ma parliamo di una cosa consueta, che sono le bollette, che ahimè è un problema veramente grande che tocca tantissimi consumatori. Sì, diciamo che il problema bollette sicuramente tocca una grandissima fetta di italiani, probabilmente più di quelli che sono rimasti colpiti dalla brutta uscita di scena dell'Italia ieri contro la Svezia. E detto questo, in questo periodo stiamo parlando molto di bollette, se lo facciamo è perché effettivamente i nostri uffici sono soddisfatti di richieste d'aiuto. Abbiamo detto che siamo in un periodo in cui stiamo andando verso il passaggio alla completa liberalizzazione del mercato e della luce e del gas prevista per il 2019, e Francesco, sta succedendo di tutto, ne vediamo di cotte di crude, abbiamo raccontato di contratti fatti a persone ultra ottantenni, ignare, contratti al telefono eccetera. La storia che raccontiamo oggi è un'altra storia incredibile, una vicenda incredibile proprio dai contorni caschiani, riguarda un operatore culturale mestrino, nostro socio, e questo operatore culturale dal 2014 è a sua insaputa cliente di Enel Energia per quanto riguarda il gas, pur essendo in realtà già cliente per il gas un'altra azienda, Veritas, che è un'azienda qua locale, e quindi in parole povere si trova teoricamente con due contratti del gas. Uno dei due contratti chiaramente non è legittimo ed è il contratto di Enel Energia, e solo di recente, adesso andiamo a spiegare un attimo la vicenda, l'operatore culturale si è reso conto appunto che Enel Energia gli addebitava in banca dei costi, dei consumi per il gas riferiti a una casa in cui lui non abita, e soprattutto insomma alla fine, prima che lui se ne accorgesse, dal 2014 al 2016 l'azienda insomma è andata ad accreditarsi quasi 1600 euro appunto per la fornitura di gas in una casa in cui questa persona non abita. Andiamo a spiegarla perché la vicenda ha un po' di è un po' contorta, in realtà è più inquietante che contorta. E l'operatore culturale che si è rivolto a noi qualche mese fa ha denunciato questa situazione. Con un controllo quasi casuale si è reso conto che in banca gli venivano addebitati delle bollette di cui lui non capiva esattamente la provenienza. Informandosi meglio, ripeto, è stato reso conto in modo casuale di questi addebiti, e una volta si è reso conto ha fatto alcune ricerche e ha scoperto che questi addebiti erano riferiti a dei consumi di gas per la fornitura in una via che si chiama Via Dante, quando lui in realtà abita in via Ariosto. Ecco, forse è stata un po' una confusione tra grandi poeti, per fare una battuta, ma insomma diciamo che in realtà appunto gli venivano addebitati dei consumi in una casa in cui lui assolutamente non abita, anche se ha sempre il nome di un grande poeta. E a questo punto chiaramente il nostro socio, in questo momento da solo, ha scritto ad Enel Energia chiedendo spiegazione. Enel Energia ha parlato di un contratto in essere e chiaramente il nostro socio ha chiesto di vedere questo contratto. Grande sorpresa, quando è arrivato questo contratto a casa del nostro socio, il nostro socio si è reso conto che la firma era stata falsificata, quindi un fatto molto grave, anzi gravissimo riteniamo. Non riusciamo ancora a ricostruire la vicenda perché chiaramente qua stiamo partendo dal 2014, quindi dobbiamo cercare di capire come si sia arrivati poi a falsificare questo contratto. Fatto sta che questa firma falsificata ha creato praticamente una nuova fornitura, perché ricordiamo che il nostro socio comunque era già servito da Veritas per il gas, ha creato questa nuova fornitura, ha creato questa serie di addebiti che sono arrivati fino all'importante somma di 1600 euro. E soprattutto la cosa clamorosa è che dal 2016 insomma non se ne riesce a venire a capo. Il nostro socio continua a ricevere bollette da Enel Energia, continua a ricevere solleciti. Ovviamente lui non sta pagando perché non c'è niente da pagare, non sta consumando niente con Enel Energia, per quanto riguarda il gas, e però la situazione insomma è clamorosa, primo perché continua a ricevere bollette solleciti, secondo perché allo stato attuale non hai ancora ricevuto rimborso di 1600 euro e non è ancora stato riconosciuto sostanzialmente da Eni Energia la grave situazione in cui si è venuta a creare a causa appunto di una firma falsa. Ora, la vicenda è difficile da ricostruire, parlando con il nostro socio è molto probabile, e qua appunto lanciamo un appello all'attenzione a tutti i cittadini, è molto probabile che forse ancora nel 2014 qualche venditore sia entrato in casa, qualcuno gli ha aperto evidentemente, e forse sia riuscito evidentemente anche a fare delle fotografie delle bollette del gas di Veritas, e probabilmente da là sono riuscito a costruire un contratto riferendosi anche al numero del contatore, tale per cui in buona sostanza il nostro socio si è trovato con a pagare sia i consumi propri reali di Ariosto sia i consumi di qualcun altro che teoricamente abita in Via Dante, però anche là è tutto un po' da capire. Non si sa quindi chi consuma questo gas? No, perché oggettivamente questo è una questione che non interessa a certo. né alla nostra associazione né chiaramente al diretto interessato. Dovrà essere ovviamente una ricerca che fa Enel Energia, e tanto bisogna capire intanto se veramente ci sia qualcuno in questa casa. Certo. Al di là di quello, ovviamente è un problema di Enel Energia. Quello che interessa a noi adesso ovviamente che vengono soprattutto rimborsati 1600 euro, perché sono insomma è una cifra notevole, e che chiaramente si finisca di continuare a mandare bollette certo. solleciti al nostro socio. Francesco, però dobbiamo dire che si apre una anche si accendono i riflettori su questa situazione inquietante, perché se proviamo a pensare che possiamo trovarci a un certo punto con dei contratti con le nostre firme falsificate, capiamo che stiamo veramente entrando in un mercato selvaggio, quasi incontrollato o incontrollabile, per cui ecco, invitiamo sempre i cittadini alla massima attenzione, in particolare in questo periodo, e chiaramente a rivolgersi immediatamente a persone esperte nel momento in cui le cose fossero poco chiare. Ecco, una cosa che mi viene da dire è che controllate spesso la vostra cassetta della posta, perché magari se arriva una bolletta e qualcuno ve la ruba, da lì può tranquillamente risalire al vostro codice e eventualmente fare cose di questo genere. Oppure quando buttate via le vostre vecchie bollette, se le buttate via, cosa che magari non si dovrebbe fare, insomma strappatele e riducetele in mille pezzettini. Sì, Francesco, aggiungerei appunto, e allora controllate anche in banca i diversi addebiti, perché certo. ovviamente anche là possono esserci brutte sorprese. Speriamo che insomma con l'aiuto dell'Adico si possa gioire anche per questa vicenda straordinariamente incredibile. Grazie a Gianluca Codognato. Ricordo il sito dell'associazione Difesa Consumatori, che è appunto associazionedifesaconsumatori.it. Grazie a te, Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.